Not to do what they told ya. Not to do what they told ya. Not to do what they told ya. Sono qua a Canica, sono. Ho dovuto mettere un'antenna grande, quella che c'avevo. L'unica che c'è bene. Se ci metti un'antenna a quota, mi esce un tubo, già lo sai. Magnum, la conosci? Della LEM. Già funziona bene. Io c'ho la... come si chiama? La tubo 2001. Quella corta c'ho, ma la sto usando mio nipote, capito? C'ho quella, poi c'ho anche la antenna per la V, per la U, giù da mio nipote. A parte, vabbè, non c'ho solo quella, lui. E anche cacciato la direttiva, quindi. La voglia che esce. Capaccio, se mi sono messo in movimento, non penso che abbia un grande segnale perché sono invallata, però già esce. No, già esce, bene. L'unica cosa che avresti metterti un microfono amplificato, già ne hai, mi sembra, microfoni amplificati. Ce ne piazzi uno e vedrai che esce benissimo. Ho un microfono da tavolo molto, capito? Ehi, già ho capito, già ho capito. Sto cercando qualcuno che gli do un microfono da tavolo e mi dà un microfono amplificato per questo apparecchio, a quattro punte. È un attacco femmina quello come ce l'ho io, agganciato alla... al corso. Io ho due microfoni amplificati io, cioè due salerta già lo sai. Solo che una cacciata al cable si è staccato un filo, adesso devo sistemarlo domani mattina, ma lo faccio con calma. Così attacco dopo il cable per usarlo un pochettino. Ragazza. Ma che apparecchio è un Midland, eh? Il 100 Plus, però c'è il connettore normale questo. C'è il connettore a 4, va. Come ce l'ho io nel 548, 548, nel Midland. Caffa. Adesso sto salendo verso Sassa, migliore il segnale, buono? Segnale 9, radio 5. Va bene. Già, va bene, già. A olio che va bene. Sto salendo verso le tue zone, sto salendo perché devo fare delle commissioni, capito? Sì, già ho capito che stai facendo commissioni, già ti ho sentito, già me l'hai detto. Adesso sono qua in via Croce, sono a Santa Maria, sono adesso c'è l'americano che ha gli umani di bassa, grazie. Wow, mezz'ora, Di Marco effendi. Te. Cosa ride? Sento pure io. Deve essere raccordando lineare, deve essere raccordando. L'altro giorno ho visto un video di quegli americani che hanno le... quelli allora a LED. Che pompa poco già. Beh, a tiro che possono pompare così. Le leggi sono diverse lì. E anche gli apparecchi, cioè gli apparecchi, a parte gli apparecchi, un Apple mi sembra che aveva, adesso non mi ricordo la marca, no, RMD come lineare era, ma grande mi sembrava un baule, sembrava ragazzi. Sì. Quello è bello attaccarlo lì vicino in Tunisia mia adesso, 10.000 fulmini ha scaricato finora, in mare, immaginati se dovesse capitare in città una cosa da 10.000 fulmini, cazzo. Non vado scendo in garage, faccio prima. No, ma rivenga, ho lasciato tu gli alemanzini. A voglia che arrivi. Appagnappa. È comodo in macchina, che devo trovare un qualcosa che abbia, come si dice, comandi, capito? Che abbia, cioè, qualcosa di diverso, non mi faccia toccare il microfono, capito? Già ho capito. Ho visto un aggeggio che si attacca a macchina ai portatili cinese, cazzo. In pratica va agganciato al telefono ma è di casa tua. Tu quando parli con portatile prende, puoi parlare tranquillamente dal telefono di casa tua con i portatili. Ah, tali cose ci hanno inventato. No, io volevo prendere, l'ho già visto, della Midland, senza fili, capito? Cioè senza cosa, perché c'è un pulsantino sul volante e parli. Se parli, come si dice, senza senza toccare il microfono. Già ho capito. Una specie di box più che altro, da. Comunque c'è, adesso mi ricordo, non è Midland. Un'altra marca c'è, mi sembra che è Presidente, se non mi ricordo male. C'è il microfono, altoparlante, tu in pratica senza l'apparecchio lo lasci in macchina e ti porti il microfono appresso, senza cavo, senza nulla. Parli, ricevi e trasmetti direttamente dal microfono stesso. E tu lasci la macchina parcheggiata con l'apparecchio dentro e ti porti il microfono a passeggio e parli da lì. Ma è terribile in città, molti fastidi ci sono, cioè, è una cosa incredibile. Città adesso non è come prima, no, che potevi parlare tranquillamente con il microfono in mano, a sentire di vigili, di tutto c'è. Con la questione di questi migranti, è tutto pieno di. C'è di tutto, polizia, carabinieri, sì. Vigili urbani, sempre in giro, so. Sto parlando che nella città ci sono molti disturbi. Sì, a parte, io lo so che ci sono un sacco di disturbi, con tutto quello che c'è per la rete, già lo credo già, a parte i tradisci dell'Enel, disturbi di telefonia cellulare, ci abbiamo di tutto di più, ci abbiamo in aria. Adesso c'ho i pinguini, adesso li entro dentro, non penso, no. Sembrano che non abbia segnato un bel potente. No, non penso che ti venga. Da quali flotte l'hanno staccato il ripetitore? Dall'hotel. Si hanno portato via tutto, evidentemente ha avuto qualche denuncia. E stava disturbando chissà dove, e ne hanno staccato tutto da quali flotte. C'è solo lì nella piazzetta di Carbonate, c'è uno l'hanno piazzato bello grande in via Milano, sopra quei grattacieli. Il ripetitore, altri no, non ne ho visto, mi sembra che c'è una hotel che ce li ha e basta. Ho capito, i vigili urbani c'erano, quindi non ti ho potuto rispondere subito. Me ne sono accorto, infatti, i vigili ci sono sempre, o in moto, o in macchina, te li trovi dietro, te li trovi. Sono sempre a passeggio, so. Adesso lavoro, prima non facevano niente, adesso già stanno lavorando loro, portano i carabinieri e polizia. Intervengono loro adesso. Gli altri se ne vanno in giro e i vigili stanno lavorando, adesso se ne fanno il culo, prima non facevano niente. Uscivano la mattina, si facevano la colazione al bar o al circolo e salivano la circolazione. Capito? Sempre impegnati erano, a magna. No, mi sto fermando, 2 minuti in via Anghero mi sto fermando. Ci riprendo tra un pochino. Fai pure, non c'è problema. Hola chicos! Attento Pomponio! Ci sei? Ho ripreso! Hola hola hola hola! Hola, sei Pomponio. Andi, chi è? Intanto non è da Pomponio, mi senti? Entrato sei, che vendo sta? Da parte. Ho capito, che vendo sta? Antonio sono! Sì, già ho capito che sei Antonio, ho detto se sta piovendo. Un be. Sono su al centro ecologico sono adesso. Ah, per quello che sei fondo schiena. Fondo scala sto arrivando. Passaggio. 1 e 3, 1 e 3. Con lo scala no, ma 9.10 sì. In questo orbite segna così. Andava. Ah, voglia, voglia, c'è anche per i polci. Sono di discesa, eh? Già fa bene, a voglia. A pagata. E adesso ho sopra Serra Secca, sono salito. E lì già è alto, a voglia. Da lì parli, con tutti parli, lì vicino alla... dove c'è la pensiera del tram. Esattamente lì sono. Sono esattamente lì. Adesso sono tutto nel movimento. E quello è già un punto buono. Per l'Alghero, per la Torre, se voglia. Già ti sentono da lì in tutti i posti. Per un credo come intendere gli altri. Ah, se avessi avuto il tempo in macchina di lì. Non sai come saresti uscito un treno, saresti uscito lì sopra. Quindi ci siamo la batteria. La batteria del 108 ci vuole, se vuoi che vada bene. E poi ogni tanto devi accendere il motore, perché lo sai che succhia intorno ai 30, un 140 o 80. E da 50 Sì, ci fa trovato di tira, c'è anche apparecchi che ne tira 100, ma già vado bene 50, a voglia. E la batteria è da 50 ampere. Ah, non ho capito un'altra cosa. 50 ampere sono batteria normale in pratica, 45-50 montano tutte le auto. Però se la metti uno da 100 ampere, lo sai come truba la macchina. Prego. Avanti. Antonio, mi senti a me? Dove sei? Io ti sento, zona alta sono. Ciao Carlo da questa. Io ti sento un pochettino più basso del solito. Sono in barra mobile. Ah, cappa, ecco perché. Benemera, però ti sento bene, dai. Radio 4 per me, ma già lo sai che sono come sono io. E mi arrivi Santiago 8 qua. Che sarà oscillante, sarà. Bonfonio! Sì, dimmi tutto. Faccio tremare l'antenna. Adesso sei al più, sei, Mi fai tremare l'antenna, sì, già lo credo. A casa tua sono. Già si nota, adesso sei 30. Sei proprio sotto. Papà Carlo, tu mi senti? Come Anto, scusa che mi era appena allontanato. Ma anche sento di essere, lo senti? Sì che lo sento, solo che mi ero spostato un attimino. Cappa, in barra mobile sono, con la macchina. E infatti adesso mi sei arrivato quasi Santiago 9, capito? Ma ti stai muovendo evidentemente. Sto muovendo, sì. Adesso ti passerà sotto, mi cargo. Perché si è girato per il quadrato, dovrebbe passarti davanti. Sì, infatti, l'ultimo passaggio ho visto che il segnale era su 9, capito? Stava aumentando, ma era si vedeva che era in movimento. Sì, beh, già lo credo. Adesso sono al quadrato solo. E adesso fisso Santiago 9 qua da me, capito? Già stai uscendo bene, Anto, è migliorata anche la radio adesso, che lì sei aperto. Guarda voi che zona sei, via Prunizzetta, no? Sì, via Prunizzetta passa, all'inizio proprio di via Prunizzetta, angolo via Pola io sono. Già lo so, vabbè, già portavo le bombole lì. Ehi, a cappa, e quindi te lo sei piazzato in macchina adesso, il CP, benemera, io c'ho l'attacco ancora in macchina, e mi sa che ne ho un altro piccolino, ce lo butto, così magari qualche volta posso modulare anche dalla macchina. Basta farlo. Da casa sono una bomba da casa, E da casa tua ti sento bene qua, vivi benissimo. Ma da casa, vabbè, è una cicquantate. Se non riesci dai così, ti devo buttare tutto. Sì, a cappa. Alessio, il tesese combinenne. Mi sa c'ho una piazza olinchinosa, adesso me la bevo. E alla buona salute allora. E io mi a casa un po' riposandomi, perché ho fatto il turno di mattina, ho fatto un riposino sino alle 3, capito? Poi ero qua al computer, adesso ho acceso, ho sentito Antonio che parlava con te, e quindi eccoci qua. Nuvolosa mi sembra la giornata, bella nera nuvolosa, però di acqua, come aveva detto, non è che ne stia facendo, è poca roba. Sì, non è per adesso, mi sembra segnato a mezzanotte, intorno alla mezzanotte che comincia a prendere la zona di Sassari, noi siamo più fortunati, meno male. Ma a Cagliari, poi, a Cagliari sta facendo un casino, Cagliari, Olbia, hai capito? La prende in pieno l'acqua. Immaginate che prima di arrivare a Cagliari ho visto un video dove in pratica stamattina ci sono stati 10.000 fulmini a partire dalla Tunisia fino nel Mediterraneo. Immaginate se piglia la zona del Sassarese 10.000 fulmini. Oh, noi abbiamo l'energia elettrica gratis per un mese. Sì, anche io ho sentito che avrebbe fatto brutto tempo, allerta rossa in Sardegna, ma nella costa quella orientale, da Olbia sino a giù a Muravera, Cagliari, quella zona lì, capito? Tutta quella costa lì la prende in pieno, a noi ci prende un pochettino di striscio, però io mi auguravo che piovesse anche qua, ma giusto per migliorare la situazione nei bacini, capito? Se ne fa di acqua è meglio, così ne abbiamo di più d'estate. Speriamo che la faccia, ma la faccia non molta, perché se la fa come quella che sta facendo adesso a Cagliari, Medio Oriente, ti trovo tutto il garage allagato io, con mi minimo. A parte il centro storico, vedrai come lo troviamo a galla, e vedi gente fuggendo da quelle palazzine. E speriamo che non faccia danno, almeno da noi, dai, poi negli altri posti non lo so come cosa sta facendo, dopo mi ascolto un po' di notizie a vedere com'è l'altra situazione nel resto della nostra isola. Mamma mia. Antu, adesso sei arrivata a bomba. Sono in zona. E adesso fondo scala qua da me. A parte sono in zona, sono. Per quello, infatti ti sento benissimo adesso, a Puglia, sei vicino e quindi io ce l'ho sul balcone, capito? Poi prossima settimana se riesco provo un po' a sollevarla e a cambiarla anche, perché questa è un po' sordina come antenna. Qualcosa di meglio? Mi sa, se riesco e trovo il modo ci piazzo una boomerang, capito? Che mi sa che sono quelle migliori per usare così momentaneamente dal balcone. La boomerang per compra di dubbio è migliore, per compra di dubbio. Io ce l'ho ma non la do a nessuno. E quella è sempre meglio averla, capito? Io ne avevo avuto una in passato e poi l'avevo data, non mi ricordo neanche a chi regalata, e quindi chissà che ne ha fatto adesso. Però non costano neanche tanto e a volte le trovi intorno alla cinquantina, sessantina di euro, non è che sono carissime. Ma me la piace sempre di comparare l'altro. Quindi ho detto, ma cosa ha fatto? Ma me la tengo. Cioè, ne ha avuto anche per le cinghicina. Ho detto no, me la tengo di scorta, ma me la tengo. Sì, perché quella ti può servire sempre in emergenza, capito? Ma la puoi piazzare anche ovunque, capito? Ti capita di doverti spostare, eccetera. È facile da mettere. E poi mi sa che è facile anche da tarare. Questa che ho io, mamma mia, è un casino. Come l'attacco a galletta, quella che stai usando tu? Adesso mi sta entrando dentro casa, tu. Come l'attacco di quell'antenna a galletta, in pratica? Se trovi parcheggio sali a casa che ti offro una birra. Beh, Ah, Zaiù. Sì, e di Rocchi, so che è via Dalmazia. E allora sei vicino vicino, se sei via Dalmazia. Scendi, trovi un parcheggio, capito, e sali. Guarda che io sono, già te l'ho detto, via Prunizzetta, angolo via Fola, col palazzo giallo. C'è Cau Carlo nel campanello. Suoni e ci beviamo una birra. Non posso berla, però magari... E c'ho te, già ne ho di altre cose, su di frutta, quello che vuoi. Le mostro, mi. E non può venire il bambino. Sì. Non c'è, che sto guardando se c'è un parcheggio, no? Ma non so giallo. Ehi, ha già son quanto, dai, poi chiama e eventualmente se trovi parcheggio, capito? Ma un palazzo giallo, cara, sì, ancora più, questo qua. Numero 10, no? No, non è il numero 10, l'ingresso è in via Prunizzetta, guarda che c'è il cancello vicino e ti puoi mettere anche davanti al passo carrabile, capito, nel cancelletto, via Prunizzetta 14. Con parcheggio, certo. E guarda che ti puoi mettere nel passo carrabile pure, tanto non lo occupa nessuno e già c'è il terrazzo, possiamo guardare, già suonano, ma non entra nessuno tanto lì. Ma è più sopra il 14. Guarda che sono al secondo piano io. E 14, c'è il cancelletto. C'è il cancelletto e il cancello grande e lì c'è il passo carrabile, ti puoi mettere lì se vuoi. Però abbiamo preso da 14. Riuscito a parcheggiare, Antu? Non è acciato. Mettila lì davanti al cancello, ti ho detto, anche se passo carrabile, non c'è nessuno, quello del condominio. Ma non so dove sia, ma in via Pola, no? Allora, ce l'hai presente Prunizzetta? Via Prunizzetta dove inizia, mica c'è la pizzeria vicino. Prima c'è quella pizzeria, capito? Poi sali ancora, capito? E trovi la casa. Ho capito. Mamma mia, guarda. Aspetta che faccio il giro, il bagasso, il rap, cazzon bello, il bagasso. Adesso dai, guarda. Un cernaglio ci siamo. Beh, Anto, non l'hai trovato il parcheggio? Guarda che ho guardato adesso, è proprio davanti al cancello, è tutto libero, capito? Anche davanti alla pizzeria ti puoi mettere un attimo, capito? Via Prunizzetta è quella che inizia praticamente dove c'è la scarpa, lì c'è l'incrocio, no, la salettina, e da lì devi salire, capito? Salendo trovi, capito, via Pola d'inizio, capito, ma non entri in via Pola, sali dritto in via Prunizzetta, subito a sinistra c'è il palazzo giallo che ha le colonne nei terrazzini, capito, e lì c'è un cancelletto, capito, ti parcheggi davanti al cancello dove c'è passo carrabile. Cosa c'è, il lucernario, la pizzeria? La pizzeria quella piccola, non lo so, mi sembra che sia lucernaio, non me lo ricordo, a dire la verità, ce l'ho sotto casa ma non mi ricordo come si chiama, poi penso di sì. Proprio lì davanti sono il palazzo che fa d'angolo, mi fa angolo via Prunizzetta e via Pola, c'è poco da sbagliare. Numero 10. 14, guarda, adesso mi affaccio al terrazzo a vedere se mi vedi. Vado, devo ragionare adesso. Scusa, Rizza, ha già compreso un diema. Cazzo, devo valuire perché ho sbagliato. Infatti io stavo guardando, che macchina hai, Anto? Tanto ci avrai l'antenna sul tetto. Perdonina. Ehi, guarda che facile, il palazzo ad angolo, capito? Tu vai all'incrocio dove c'è quella salettina e vedi subito il palazzo giallo, capito? C'è poco da sbagliare. Mica nei terrazzi sono ad angolo lo stesso, ci sono le colonne, capito? Già lo vedi. Tu sali sempre in via Prunizzetta e c'è l'ingresso da quella parte. C'è cancello e cancelletto, prima c'era un parrucchiere lì, capito? Ha già compreso. si dovrebbe parcheggiare lì vicino a dove c'è la scarpa, mi. Ti fai pezzettini a piedi, ti fai. E così la macchina è tranquilla, tanto lì non parcheggia nessuno dove c'è la scarpa. Che ti ho capito, ma non stavo ragionando con la testa. Certo, lo sai la neve che ha fatto in Russia, Carlo? 5 piani in una palazzina, non per terra, da quanto ne ha fatto, ha coperto anche il tetto, da terra. Non so così macco, a vacca sto prendendo una via per un'altra, mi. Ho già compreso un die. Se mi salire il gatto dice da proprio, all'inizio. C'è questa palazzina gialla, già si vede subito, si vede. Ok, dai, ci sentiamo dopo, ciao. Ehi, d'accordo. Ehi, Anto, già va bene lì dove hai parcheggiato. Scendi e sei arrivato. Dove eri fermo prima è lì l'ingresso, dove c'è il cancello che eri messo di punta. Suona lì. Tanto c'è, già lo vedi Carlo nel campanello. Avanti, Gio Maria, buongiorno. Dottore, buonasera. Ma ce n'è il vento lì? Non molto, ma già c'è, la verità. Ancora il vento forte, no. Non ha ancora preso aria qua, già lo sai. A Cagliari sta facendo di tutto di più. Cagliari, la giornata di Stano, a Olbia. Cosa ride, ho visto i filmati poco fa. Per carità, per lì ne sta scendendo proprio l'aria, ragazzi. Cioè, quella zona sta diluviando, già l'ha detto, cioè, l'aria nera, cioè, però dal basso di Alghera ho cominciato io a partire Olbia, però qua nulla, ancora qua non c'è niente, però a Cagliari deve essere proprio fortissimo. E a Cagliari l'ha presa in piena perché in pratica è partito dalla Tunisia il ciclone. Cioè, tu immaginati 10.000 fumi in mare, non lo so io, tra Cagliari e Tripoli. L'importante non faccia danno, dai. Speriamo che non faccia molto danno, per cui che cosa vuoi fare? Non è che la puoi far male, no? Ovvio, per cui va. Perché proprio temporale non ne ha fatto ancora qua, ancora non si è visto nulla, anche il vento così, ma poca roba, dai, però in certi punti alla parte di Cagliari e Olbia sta facendo forte. Perché il vento lì lo prendono in pieno, hai capito? Noi siamo più tappati, ecco perché. È brutto se dovesse arrivare temporale dalla parte di Alghero, allora Alghero, Bosa ci fa nuovi, perché oppure come è successo una volta che il temporale è estivo, la partita da Porto Torres si è fatta tutta la zona costiera di Porto Torres, Sosso, Senuri, te lo ricordi quando avevano trovato tutte le bare, le cimitero tutte in mezzo strada? Ehi, facci, mi ricordo già. E poi va scaricato lì in la zona di Rateloce, dove sei tu. A noi qua ci aveva pigliato di striscia, la verità. Vedevo questo cielo nero, fumi, eccetera, eccetera, però qui a Carbonazzi nulla, neanche una goccia d'acqua ha fatto. Ha fatto almeno 3 o 4 ore scaricando di là. Figurati tu. Ehi, un attimo il telefono, tanto lei. Purtroppo il tempo è così. Quello che non è, io non ho mai visto cicloni nel Mediterraneo, la verità, da quando sono nato. Mi sto vedendo ultimamente tornado, cicloni, sempre cicloni, perché l'estate la fa molto calda, l'acqua in pratica è bollente, a un certo punto tra il freddo e il caldo si formano le nubi, eccetera, eccetera, quindi scarica un bel, perché trova dove attecchire. Un attimo il telefono, Antonio. Va bene, Gianmarie. Allo. Ehi, sto parlando con un'antenna orizzontale. Ah, e come mai? L'ho messa orizzontale per il vento, l'ho sfilata dal portacanna e l'ho appoggiata all'albero di fronte, quindi praticamente sto scendo in orizzontale, in direttiva sono. Cos'è un tipini per stanotte? Da ieri l'ho passata, infatti mi ha chiamato anche quella che abita sotto di me. Guarda, c'è l'antenna rovesciata, no, no, l'ho appoggiata io all'altra, gli ho detto per sicurezza. Ah, sì, ha fatto bene. Io spero solo che non si butti a abbia 27 stelle e la direttiva, poi il resto della pupilla in culo. Un attimo. Eia. Brutto buco. Dimmi, tutto dimmi. Il barratto. Beh, Luca, come va? Beh, Antonio, sono un attimo che sto saldando qua un... di caricabatterie per la macchina. Ah, devi seggidersi. Località. Ho visto un... Ah, no, non caricabatterie, quello che ho visto da poco era stato 70 euro. Gli ha fatto pagare un attivatore per auto, certificato con due batterie dentro, ce l'ho qua buttato, uno uguale, monta due batterie al litro, fini, capito? E non serve un tubo. Sono coccomani. Lo so, l'unica cosa che hanno di bello è gli impianti stereo, non hai visto che stanno pubblicizzando i cinesi? Altri quanto l'armario sono, 50.000 watt, col monitor, tutto, io penso che costerà l'anno minimo di 1.200 euro quella gente. E boh. Sono belli sono comunque, la verità sono belli. I cinesi sono una cosa allucinante quando fanno le cose. Uiuia. Ma sei a riposo? A parte vabbè che stai saldando. Lì sì. Beh, già chiuso avete. Come mi ascolti in orizzontale? Prova a fare un passaggio e ti do un controllo. Il cuore come arrivavo prima con la terra in piedi? Boh, non lo so, vedi un po'. Boh, sei 9 qua, 9.5. Io sono quello con questo LMS200, quindi no. Non mi ricordo adesso il segnale del Kenwood, ma penso che senz'altro sarai più forte. Adesso almeno ho perso di altezza, diciamo 6 metri, la canna è 8 metri, adesso ce l'ho a livello di finestra, dai, in orizzontale, un po' anche imbarcata perché col peso si piega un po', dai. Beh, è chiaro che dove si piega la canna, l'ho avuto anch'io, ma io l'ho usata poco, la verità, quell'antenna. Quello regalato insieme a un baracchino che avevo ordinato quando c'era il Covid, costava 50 euro su internet e poi mi è arrivato a casa 70 euro a Giovagardo, vado a modulare, uno schifo del genere mai visto. Cioè aveva il microfono, l'ho aperto, e che strano, ho detto, che esco così male. Allora, lo apro, c'era uno, come si dice, ti dico di quei portatili di una volta, che era da parlare sul canale 11, canale 14, è uguale, un altro parlante c'era. Beh, uno dei primi portatili, mi sembra che avevano tre canali, dei quali però solo uno quartato. Non mi ricordo che canale ci fosse, forse il 3, boh. E poi gli avevo aggiunto altri due canali, mi sembra il 23, non so se era l'11 o il 15, adesso non mi ricordo. Ho comprato le copie di quattro, dai, deve finire dentro. Ho capito. Poi l'ho provato, ma c'è ancora qui quel microfono originale, mi buttato. C'è l'attacco a 8, c'è. La pedale in pratica con il baracchino e ho preso, gli ho messo un microfono M300 da giù regalato, c'era Taxilello, gli ho regalato, gli ho dato la canola a pesca col cavo per piazzarsela quando voleva lui e l'apparecchio, capito? Io ho detto non lo voglio più vedere, gli ho detto, né, con l'apparecchio, ho detto ti regalo la canola a pesca, gli ho detto, perché gli ho detto se non posso piazzarmi una canola a pesca qui su, gli ho detto, carta di colore verde, ho detto se si vedeva un chilometro, gli ho detto. No, questa è sul grigio, dai, non è molto visibile. Il grigio poi adesso è un po' sviarita. E questa è 8 metri. Ed è già al limite, sarebbe voluta qualche metro in più. Adesso perché la bobina mi rimane vicino al portacanna, dai. Quello lì è in ferro, dovrebbe essere un po' lontano dal ferro, però va bene lo stesso, dai. La tua quanti metri era la canna? 7 metri era. Senti, ancora più corta, ci vorrebbe una prolunga, qualcosa per allungarla un po'. No, già funzionava, già, però l'ho piazzata a mio fratello giù nel terrazzino. Tu immaginati che la terrazzina al primo piano arrivava tranquillamente al tetto e ne usciva un pezzo dal tetto, ne usciva. Poi mi ha telefonato uno del condominio e dice, ma cos'è questa cosa che hai piazzato che si vede, dice, perché? Dice, tu un'antenna, ha detto, un'antenna per baracchino, perché? E allora lui ti dice, la notte la sollevi, la mattina la abbassi, ha detto, fai una cosa, fatti una cagata, ho detto, una bella cagata, gli ho detto, per cosa cazzo mi hai preso, per andare a pescare, gli ho detto. Togli, metti. No, qui meno male, almeno di quel lato non mi hanno mai detto niente, però. Anche la mia mi arriva dalla finestra, dalla punta, supera leggermente la grondaia, però il tetto, diciamo, lo spiovente è la parte più alta e va ancora più su. L'antenna arriva nella parte bassa dello spiovente, dai. Ho capito. Sì, vabbè, io già. Già avevo pensato la cosa, la antenna, quindi già andava bene lo stesso. Posto di quella, e era un pugnaocchi, cazzo, di colore verde, cazzo. Le canne sono così, l'importante è che sia in vetroresina. Io ne ho un'altra vetroresina, l'ho presa da Decathlon, però è 7 metri, non è 8 metri. Lì va bene a metterci una, non una 5 ottave, come si chiama, una mezz'onda. Ho capito. Sono di bongo, non devo stare, quando fa vento, cazzo, devi stare cazzo pigia bigia come il coso, no, qua fa troppo vento, io prendo in piedi il maestrale, hai capito, e quindi quando faceva vento, tu immagini, quando fa vento, per la B27L che ci ho messo, si piega e poi se la drizza, sembra un pisello, sembra. Cosa c'è adesso come antenna? La BA27L sto usando, cioè la Mercury 5 ottave sto usando per esattezza. Perché la Mantova me l'ha, ci è passato il fulmine e me l'ha, mi ha sciolto la bobina all'interno e ho preso, l'ho regalata. Hai capito? C'era la carica all'interno della custodia esterna nera, proprio sciolta, tu immagini, il PL ma usciva, sei incollato, Maria. Invece, vabbè, la bobina gliela potevi ricostruire, cioè, se non ha fatto altri danni. Io invece la mia si è tutta ossidata, il resto è buona, però ci vuole un piantone nuovo, perché gli attacchi dei radiali ci sono tutti gonfiati e ossidati, capito? Perché ci vuole la vasellina, ci vuole, io ho fatto così, prima gli ho passato la vernice con alluminio sotto e anche sopra, e poi ci ho messo la vasellina, poi ci ho messo le viti e i radiali, meno male, ce li avevo tutti, ce li avevo, li ho piazzati e andava benissimo, c'era uno e uno di stazionari e tutto andava bene. E invece poi quando è arrivato quel fulmine mi ha strappato quella, mi ha incendiato tre televisori e in più anche il termico di casa. Quindi in pratica ho visto questo fumo a cazzo uscire dalla... in casa a cazzo preso, cazzo, immediatamente sono sceso giù, il contatore non è saltato di giù, nulla, quello di su è il termico, è partito da 15 ampere. Non so se c'è qualcuno che voleva entrare, sentivo gente sotto, cioè. È il fumo è maledetto, io quando mi ricordo stacco tutto quando ci sono in casa, se no. Ma la mia è in basso, capito? Poi c'è il sacro cuore qua che c'è il parafulmine, in teoria dovrebbe scaricare su quel punto lì, è altissimo. Vediamo un po', qualcuno vuole entrare? No, negativo, forse o è propagazione, Antonio. Non lo so, neanche io. Comunque sia, non mi ha fatto bene danno. C'è passato il televisore, cioè, mi ha proprio bruciato il cavo della TV. E poi mi ha incendiato i televisori, quello di camera da letto mi ha diventato di tutti i colori, poi ha fatto un buco nello chassis dove c'è lo schermo. Figurati. E la Mantova cos'era? Mantova 1? La Turbo era. No, questa è Mantova 1, quella con 4 radiali, quelli poi in vetroresina, che sono maledetti, quando iniziano a sfibrare ci vogliono i guanti, se no ti fai a beffa. Quelli sono una rottura di balle, insomma, perché quando si secca la vetroresina ti entra dentro le mani e vai e toglila, tu ci vuoi dare il ingrandimento. Rimane per qualche mese, così poi piano piano si consuma, si fa il callo sopra e non te la accorgi, non la senti più, però i primi giorni sono fastidiosi. E l'ha fatta da lì, domani. O ci mettevi tipo il termorestringente, no? Li rivestivi con quel termorestringente, guarda, ti evitavi di pungerti. Oppure una levigata sempre con i guanti, una verniciata, boh. Sì, vabbè, ma già mi va bene quella che c'ho. Pesa poco, non devo stare sotto al tetto. Cazzo, per chi antenna mica viene male a 60 anni, mi sollevali con un braccio e anche con l'altro. A parte c'è sempre vento qui, quindi devo beccare il minuto giusto che calava il vento, stracciarlo dal palo e appoggiarlo immediatamente in terra. Poi da lì devo scendere nel terrazzino e naturalmente il radiale si piegava, quindi... mi sono comprato da medico di 5 ottavi, 60 euro e c'è la biglietta in Napoli, lì c'è pensata a quella, poi ho un'altra di riserva che ho regalato a mia sorella. Chi la costruisce la Mercury? Mi sembra che la Midland, se non ricordo, la Midland la costruisce. Aspetta che la cerco a vedere. C'è la Mercury mezz'onda e la Mercury 5 ottavi. Con la 5 ottavi c'è tre radiali, la mezz'onda radiali non ne ha, però si possono piazzare, perché c'è la stessa basetta uguale, precisa identica. Aspetta, mi stanno chiamando al telefono un attimo. Ehi, d'accordo. Chi è là? Ora, 2, 3, 1, 2, 3, ciucciù, Giuseppa. Eccoci. Ah, ci sei. Ah, sei rientrato, sì. Allora, lì. Scrivi tutto, dimmi. Sento in dialoghi. Vai alla grande, Antu. Allora, senti, Antonio. Tu hai voglia. È andato via adesso, eravamo insieme a casa per c'è una cosa, era col bambino. E la voglia che si sia, lo sento, si sente benissimo. Fatto bene. Ma lì è cara l'acqua, Antu? Ti prendi, non ti chiudi. Non ti chiudi perché non so se la paghi più al supermercato. Quello vicino alle porte, che è più avanti delle porte, è vero? Sì, davanti con io. Sì, ho capito dov'è. Sì. Se mi capita già ci passo anche io a prendermi un po' di acqua. Se hanno quella smeraldina a buon prezzo me ne prendo una decina di cartoni. Smeraldina, c'è buona la smeraldina. C'è un'altura che è buona lo stesso, hanno un'altura che è molto buona. Ne avranno diverse marche lì, perché vendono un po' di tutto, vendono bibite pure, birra, ho visto, e hanno di tutto. Sì, per loro forniscono anche l'acqua nei negozi. Eia, cappa. Chi c'era, Antone, con te alla radio prima? Chi era? Gianni? No, Franco era. Ah, Franco era, allora aveva ragione Antonio, mi sembrava Gianni. Profetta, invece mi ero sbagliato. No, è Franco. Sì, a K. Buonasera Franco, se sei in ascolto ancora, Carlo da Questa. Franco, figlio della Sia. E Luca, si sente in occhi. Dove sei tu? Di Auriani, sotto, in mezzo ai palazzi. E ti ascolto, non so se tu ascolti a me, ma ti sento, dai, oscillante segnale. Bomba sei qua. A bomba sono. A orologeria. Che qua, fondo scala qua. Sì, ciao Carlo. Dai, ma io sto saldando un filo. Cazzo, mamma mia, è un casino qua. Sì, non ti preoccupare, mi, tanto siamo qua a fare quattro chiacchiere, tanto entrerà, spero qualcun altro adesso a farci compagnia. Speriamo sì. Se già funge questa Magnum, cioè, questa è proprio, ce l'ho tantissimi anni, ce l'ho, una delle prime stelle che ho comprato per la macchina. Eia, cappa Antonio, dove sei adesso Antu? Sono qua in Viale Mameli, sto andando. E ancora qua a fondo scala mi arrivi molto bene. Considera che sei in mezzo ai palazzi e quindi buona antenna quella, centro tetto, va bene. Ma dammi l'antenna di raccolta di l'autoradio. L'autoradio lo senti lo stesso? Sì, ma l'apparecchietto, perché sotto di K. Ah, è K. E infatti se trovo il tempo anche io mi sa che mi cambio l'antenna che ho, quella della radio, e poi ci metto il miscelatore. Capito, oppure ci butto dentro un'antenna così per la macchina di quelle, capito, che ricevono comunque, e così mi metto la radio in macchina. Cazzo, per farlo bene l'impianto, una mattina mi ci sono stato, perché devi apprezzare plastica, passata del campo, non è vicino. E lo so, ci vuole un po' di tempo, capito, a far passare il cavo, ci vuole tempo, devi staccare un po' di cose e poi riattaccarle piano piano, e insomma quando mi danno un po' di ferie, se trovo un attimo di pazienza, di giornata buona, mi metto d'impegno, mi cambio la basetta, capito, ci metto una di quelle mini snake con l'attacco universale e quindi ci posso mettere quella alta come la tua, capito, oppure di quelle che hanno la farfallina, l'attacco a galletto, dai, che si chiama, e posso mettere sia la corta che la lunga, capito, a seconda dei casi, e così ce l'ho in macchina e se capita si può modulare anche dalla macchina. Vero, buonasera a tutti. Ciao Gianni, buonasera. Io l'impianto in macchina ce l'ho da tanto, l'ho fatto fare professionalmente, ho fatto mettere cavi professionali, eccetera. Già è buono, se te l'hai fatto fare bene, insomma, non guasta, capito. E in compagnia qua c'è Alessio, capito, e c'è Franco Antonio in barra mobile, era qua a casa mia col bambino, e ci siamo bevuti insieme una cosetta, e stava passando in zona, gli ho detto passa a trovarmi, che mi fa piacere. E penso che stia rientrando a casa Antonio, guarda se lo senti Gianni. Sì, a prova tu. Sì, Santiago 9, sì, Santiago 9, Radio 5. E Carlo, l'ho fatto fare perché non c'era posto per passare il filo ed era un casino, siccome la macchina è nuova non mi andava di farlo, l'ho sempre fatto io, ma questa volta l'ho fatto fare da Pudi, che è quello che fa gli impianti per fare le gare audio, dai. Ho capito, sì, beh certo, quelli sono professionisti, hanno tutta l'attrezzatura, sanno come fare, hanno l'esperienza, attaccano e quindi già lo credo. Noi invece facciamo piano piano, ma se ci mettiamo già facciamo comunque, dai. Dovrei riuscire io a sistemare un po' tutto, sia quella della ricezione della radio, FM, AM, la radio insomma della macchina e la radio GB. Ma io l'ho sempre fatto io gli impianti, ci ripeto, però anche importanti come impianti, dove c'è l'amplificazione.